In diretta da Piazza San Pietro va ora in onda il coro delle guardie svizzere. Nel consueto saluto al Papa, l'Open Cast. Le ricordavo diverse le guardie svizzere. Ma no, secondo me è normalmente così. No, normalmente le guardie svizzere sono svizzere, quindi sono lì composte col coltellino che giocano. Dita che vanno da tutte le parti. C'è una cosa che non capisco però. Che cosa? Cioè, se si tratta di guardie svizzere. Esatto. Questa base. Perché si chiamano soprattutto lo Sburracios? No, quello è un altro gruppo. Abbiamo ascoltato Ode al punk rock dei Borrachos. Ah, pensavo guardie svizzere. Gruppo tedesco, dal nome si capiva. No, però invece di base, visto che parliamo di guardie svizzere, di gruppi tedeschi, di base questo... Ah sì sì, vabbè, la musichetta che stiamo sentendo. Tuo campanella con Greek dance. Ma perché vogliamo esaltare il nostro ritorno dalle vacanze, perché... Il tuo ritorno dalle vacanze. Allora, diciamo le cose come stanno. Opencast e tutto il suo gruppo è andato in vacanza in Grecia. Senza dire niente a nessuno. Senza tutto il gruppo di Opencast. E mi sono portato via il mixer, perché facevo le feste sulla spiaggia con i due soprano, certo, qua. Certo, proprio loro. Sì, va bene. L'importante è che non si dica dove sono stato. Amico, no? Ho detto di no, di non dirlo. Signori, questo è Opencast. Siamo tornati dopo un periodo di silenzio così. A sorpresa. In diretta col mixer rosa siamo tornati. Sì, perché ha avuto un'estate difficile, diciamo. È stato che facile. Ha scoperto cose che non sapeva. Ho visto cose che voi umani. Comunque, tanti auguri. Tanti auguri. Tanti auguri a tutti. Quanti anni compi? 30. Magari. Magari. Come? Come dal primo singolo di Madonna. Esatto. Come gli anni di un famoso vino che non si può nominare. Ah, ecco, come il Tamagotchi. Il Tamagotchi ha 30 anni. No, meno. Meno. Comunque, avrei detto 30. Qual è la notizia fondamentale di oggi in questo Opencast numero 41? 40. Esatto. Siamo vicini, eh. Siamo lì. La notizia fondamentale, signori, è l'anniversario dei 30 anni del progetto GNU. GNU, detto anche GNU, a seconda di come preferite. Dovrebbe essere GNU. Se qua ci fosse Elena, sicuramente ci farebbe notare. Non si dice così. Perché c'erano le guardie svizzere, sai che lui è sempre in mezzo. Va bene. Quindi correva l'anno 1983, era esattamente il 27 settembre. Come quando, oggi, DJ. Come oggi che è il 1973. Esatto. E soprattutto 83. Il 27 83. Settembre. Esatto. Quando 83, Richard Stallman ha annunciato la nascita del progetto GNU. Avrà imposto le mani dicendolo. Probabilmente sì. Ma veniamo invece a una cosa molto più interessante. Che cos'è successo in quell'anno mentre Richard Stallman annunciava il progetto GNU? Cos'è successo di così importante perché i media non hanno dato risalto a questo al progetto GNU? Cioè, beh, abbiamo già detto il primo singolo di Madonna. Un momento, scusa. No, va ora in onda l'almanacco del 1983. Correva l'anno 1983. Quando il primo gennaio ARPANET cambia ufficialmente protocollo per passare a IP, dando vita a Internet. A www. Esatto, esatto. Cosa succede ancora? Il 6 gennaio era la Befana. Oh, esatto, cacchio. Esattamente. Anche quell'anno. Sembra incredibile. Ma hanno detto che forse anche nel 2014. Cadeva la Befana, cade tutti gli anni. Cade la Befana. Esatto, il 4 giugno. In Francia la nazionale italiana di basket vince il campionato europeo di pallacanestro maschile. Non fammi piangere, tanto per dire. Esatto. Ma insomma, a nuoto ha vinto. Il 30 giugno, sempre nel 1983, si è avuta la 12ª applicazione del minuto di 61 secondi. E cos'è questo minuto di 61 secondi? È un minuto che dura un secondo. Prova a contare. Lo scopriremo nella prossima puntata di Bravo, se c'è qualcos'altro. Esattamente. Ma attenzione, a dicembre. No, vai no, scusa, vai a novembre, ottobre, ho sbagliato, esatto, scusa. A ottobre, il 25 ottobre succede questo. Vengono arrestati in Brasile i boss di Cosa Nostra, Tommaso Buscetta e Tano Badalamenti. Oh. E nello stesso giorno, sarà un caso, Microsoft rilascia la prima versione di Word per DOS. Noi di Opencast pensiamo di no. Pensiamo che non sia un caso, ma credo vedremo che poi le indagini dove ci portano. Ma insomma, soprattutto, chi ha fatto più danni? è ancora tutto da discutere, insomma. Abbiamo sbagliato, dovevamo mettere 41 bis Word. Abbiamo trasmesso l'almanacco del 1983. Oh, ma torniamo ai giorni nostri. Cosa sta succedendo in questi giorni? Non lo sappiamo perché noi abbiamo studiato tutto il 1983. Ma te lo dico io. Quindi mentre noi studiavamo il 1983, io mi facevo i cazzi miei e leggevo le notizie. Che vedi perché non ti rispondeva mai? Il più solito. Lui è sparito da un po', perché il nostro amico qua, i nostri ascoltatori di vecchia data se lo ricorderanno, biondo. Come biondo. Invece biondo. Adesso è biondo. Biondo. Bianco. No. Ricordiamo le cose. Lui era il protagonista di Come ti compilo il kernel, una tipica trasmissione che andava in onda in mezzo al nostro Opencast. Te la ricordi? No, sinceramente no. Neanche. Vede che allora l'abbiamo tagliata. Esatto. Probabilmente prima ancora di farla. Ecco. E intanto che la base greca ancora ci allieta con le sue musicalità, andiamo alla prossima puntata, alla prossima notizia. Notizia. Scusami, sono veramente stavo dicendo troppo che avanti. A sorpresa direi. Google ha dichiarato la nuova versione prossima di Android, che sarà la 4.4, oserei dire, che come tutte le versioni di Android ha il nome di un dolce. Sì, dopo, mi pare che la chiami Cannolo. No, Cannolo era la versione, la terza versione, perché vanno in ordine alfabetico. Ma hanno iniziato dalla A. Hanno iniziato dalla C. Non lo so. Però lascia stare. Ho capito, però. E dopo l'ice cream con la I, dopo il jelly bean della 4.2 con la J, che dolci potevano cercare con la K? Con la K c'era il calippo. Tutto torna invece. E invece no, hanno deciso di chiamarla con un nome. Che nome? KitKat. Ma non come quello che mangiano. Ma scusa, ma è pubblicità? È pubblicità non neanche troppo occulta, oserei dire, perché da Google ha anche fatto una come si chiama? Una joint venture. Una joint, esatto, si chiama così, joint venture con la nota ditta di chi? La chiameremo svizzera, che noi facciamo una cosa. Scusa, non ho capito perché hanno deciso di dare il nome di un cibo per gatti. Allora, perché qualcuno lo usa come dolce, eh? Ah, capisco. Allora, no, allora le motivazioni sono, visto che ti diamo tanti soldi, no, è il dolce che gli sviluppatori hanno consumato maggiormente, sì, durante già la produzione di quello. E già vero il caffè che bevevano. Ma la G non poteva essere Guttalax allora? ma è dolce a dopo. Ho capito, però, nel senso, consumo e consumo. Restiamo, come dire, curiosi. Vabbè, su quale sarà il prossimo nome a questo punto? Ho capito, ma qualche notizia, cioè, nel senso, cos'è che c'è dentro? Allora, nel questa senso, versione fondamentalmente non c'è un granché di nuovo. È io una ho scoperto di che passaggio. Tricore. No, io ho scoperto che c'era il biscottino lì che hanno fatto la statua proprio col KitKat, che dentro alcune barrette c'era la possibilità di vincere dei premi di Android e basta. Sì, quindi dire di tutto è commerciale e poca. Ah, pensavo fosse, diciamo, una cosa importantissima. Del tipo, non lo so, capito, no? Tipo? E, per esempio, cioè, quello di cui tutti hanno bisogno in questo momento. Capito, no? Porno, stai dicendo? Sì, però dico, capito? Ah, quella cosa lì è... Sai che non vi seguo. No, ma scusa, presente quella. Scusa, cioè, tu quando, anche prima, cioè, quando ti svegli la mattina, tu pensi, cacchio, mi servirebbe proprio questa cosa qui? Capito, no? Sì. Ecco, perché non c'è? Sì. Sì. Cosa la fanno uscire a fare? Sì. Didi no? No. Ok. Funziona il microfono, direi dire. Non ne sono sicuro. Vabbè, comunque. Uscirà sto KitKat qui, quindi senza grandi novità, ma comunque dicono che raggrupperanno tutto il variegato mondo di Android. Bah, vedremo. E qualche bug fix. A proposito di bug fix, apro una piccolissima parentesi: continuano i bug del nuovo sistema operativo della mela a marcia. E ne sono usciti. Ma noi? No, vabbè, ma è giusto dirlo. Del tipo che il telefono bloccato viene sbloccato e si possono fare delle telefonate. Comunque, oppure le mappe che ti mandano a guidare sugli aeroporti. No, c'è da notare che nella versione, parlando appunto di questa cosa, nella versione 7 dell'ultima versione del sistema operativo di cui stavamo parlando, la mela marcia, esatto, marcia. L'icona dell'applicazione per le mappe non mostra più delle indicazioni che includono il buttarsi da un cavalcavia per entrare in autostrada, ma semplicemente un incrocio, perché se andate a vedere la differenza effettivamente c'è. Quella della versione 6 c'era un cavalcavia e il disegnino delle indicazioni stradali che saltava giù. Comunque stavo cercando prima di cominciare la trasmissione, diciamo in fase di redazione, qualche notizia quando su... Quando bevevamo la birra, intendi dire? Ah, esattamente. Quando stavamo mangiando. Esattamente. Stavo cercando qualche notizia su che cosa ci sarà in Android KitKat, ma tutto quello che abbiamo trovato è il fatto che si chiamerà Android KitKat. Per cui diciamo pare che la notizia, grossa notizia, sia quello, che si chiama KitKat. E poi il fatto che cosa c'è non gliele frega un po' un cazzo a nessuno. Ci sono. Però Android, nel frattempo Android sta raggiungendo il 90% del mercato mondiale. Sì, oramai diciamo che dopo la luna c'è Android. Non l'ho capita, ma va bene così. Come sistemi operativi. Sì. Perché non può essere? Sì. Vabbè, a proposito di sistemi operativi, ci sono delle nuove tecniche per portare avanti. Se tu fai un sistema operativo per telefoni, puoi portare avanti il tuo sistema. Aumenta la popolarità del tuo telefono pagando delle persone che ti riportano un dispositivo Android o Apple. Cioè, stai parlando di gente che fa telefoni. Tipo che uno. Che nessuno se li fila. Allora, lo chiameremo uno. Ok? Ti dà M come minchia, oh, piccolo, sì. Esatto, okay. Ti do fino a $350 se mi porti il tuo dispositivo Android o melato. Ma e qual è la fregatura? È che ti do uno dei miei. Ah, ecco, capisco. E così cerchiamo di arrivare fino allo 0,2%. Va bene. È molto interessante tutto ciò. Giunti a questo punto, direi che facciamo un piccolo stacco musicale. Una pausa di riflessione. Una pausa di riflessione. Noi nel frattempo andiamo. E adesso. No. Adesso facciamo una preghierina per BlackBerry che sta fallendo. Va bene. Gusti, è vero. Questi sono. Perché è un artista singolo. Da solo. Nicholas Falcon. Cioè, quella cagata lì l'ha fatta da solo. Sì, beh, di solito io le faccio da solo. Non so se tu preferisci fare in compagnia. Cioè, il brano, visto quell'andazzo che ha preso la serata, si intitola Greek Love. Nicola Spazio. Mom and Dad are so glad they got you the best friends money can buy. Goodbye high school, welcome to college Greek life. The good old days when you could haze a long, long, gone away. That's alright, just don't get caught and do it anyway. You were invited to the grab a date and you're so excited you can't wait. And I know you're hoping to get laid, but when she's so weary enough make the choice, she only sleeps with Sigma Epsilon boys. Faccio un brano che non mi ricordo un accordo di questa canzone. Ok, l'ho trovato, era un sigaro. Ciao, sono Angelina Giolitti e anche io ascolto Opencast Alpha. Speriamo che finisca questa nostra parentesi greca perché ci ha già rotto i tre Aspetta, quarti. La base è cambiata. La base è cambiata, non si capisce come mai. Meno male. Vabbè, signori, questo è Opencast Alpha, l'unico podcast ad alto contenuto di niente. Niente. Come niente? Vuoto spinto ci ha contattato il CERN, dice che vogliono venire a aprire una sezione staccata per studiarci. E ci sparano degli elettroni e dei neutrini. Esatto, ma tanto noi non ci preoccupiamo perché siamo vuoto, cioè proprio siamo vuoto. Al vuoto, noi che ci frega. A noi che non ci interagiamo. Frega, vorrei fare un saluto ai nostri amici che si trovano a bazzicare le zone del CERN. Mimmo, ricordati che hai degli amici. Di me. Come ogni tanto esci da quella fogna e vieni qui che si mangia bene. Esattamente. Andiamo avanti con la prossima notizia in cartellone. Ma la prossima notizia in cartellone è quella. Io ci ho scritto qua Steambox. Steambox. Steambox che è il futuro Steambox. Esatto, che è la scatola del vapore. Esatto. Allora, Steam, che cos'è? Vapore. Steam, vapore. Vapore, quindi. Allora, aspetta, partiamo dalle basi. Allora, vapore, acqua. Acqua. Tu per prendi fare l'acqua. L'albero. Ci vuole l'acqua. Ci vuole. No, questa non è questa così. Puntata. Sta degenerando una schifezza. Assolutamente. Allora, Steam è questa casa di videoludica. No, allora, Steam è una videoludicità. Un progetto intrinseca. Di Valve. Valve è una casa che di videogiochi. Di vapore. Di videogiochi. Steam è fondamentalmente è un app store per videogiochi. App store. Che era saltato fuori qualche tempo fa perché aveva fatto anche una versione per il nostro pinguino. Esatto, hanno rilasciato la versione per Linux, per cui anche i videogiochi sono acquistabili e videogiocatori e girano in maniera nativa. Esatto, quindi dovrebbero sfruttare appieno il tutto. Esatto, ultimamente i capocci di Valve hanno più volte ripetuto che il futuro dei videogiochi sui PC sarà Linux. Sì, perché si sono rotti i maroni di tutto il resto. Perché ci hanno messo 6 settimane a installare un sistema operativo e non sono riuscito a installarlo e quindi non lo testiamo. No, perché in realtà gli è arrivato un computer di quelli con l'ultima versione Touch, quelli con l'8, hai presente? E l'hanno guardato un col attimo Surface. E hanno detto, ma che cazzo è sta roba? Ma li dovevamo fare noi i giochi? Perché ci hanno venduto dei giochi? La realtà è che stanno cercando di separarsi dal mondo di nicchia. No, di nicchia, diciamo dal controllo. Mondo esatto. Di minchia. Dal controllo che anche comunque i sistemi proprietari impongono. E soprattutto le variazioni che ti obbligano a subire. Esatto, il che ogni è divertente versione. Pensarlo, considerando che tutti si lamentano che le cose su Linux cambiano continuamente, sì, le infatti. Interfacce, le cose. C'è da dire che nel frattempo Valve è andata avanti. Valve va avanti. Sì, aveva, sì, sì, sì. Perché aveva lei annunciato... ha detto: voi col pinguino potrete giocare. Esatto. Adesso siamo passati oltre. Voi col potrete pinguino. Fare quel cavolo che volete, esatto. Perché vi daremo uno Steam Box che in realtà c'è dentro un pinguino. Allora, inizialmente aveva annunciato una console portatile per videogiochi. Alla che console! Girava Linux. Adesso c'è il pinguino. È stato annunciato il progetto SteamOS. Yeah. Che cos'è? È un sistema operativo Linux basato su una distribuzione leggera. Sarà Gentoo? No. È una. Adesso Ubuntu mi sfugge sarà. Il nome. No. Sarà Anna Montana? Anna Montana, esattamente. Anna Montana Linux. A cui hanno cambiato l'interfaccia. Perché? Per farla adatta ai rosa. Uomini, ai sistemi. Era rosa, non è più rosa. Per farla adatta ai sistemi di intrattenimento, per cui per televisori e cose del genere. Un'interfaccia, diciamo, più da media center, esatto, che da sistema operativo. E sarà un dispositivo su cui si potrà giocare, vedere l'internet, musica, sentire film, la musica, eccetera, eccetera, girare su internet, l'abbiamo detto. E diciamo che lo attacchi dietro al televisore e funziona. Esatto, il tutto sarà ovviamente integrato col sistema Steam di Valve. Esatto, per cui potrete direttamente scaricare, acquistare, giocare. E comunque, esatto, diciamo, stanno facendo un business sul grazie a Linux. Esattamente. C'è da dire Speriamo che l'unica che... nota un po' dolente di tutto questo è che Steam e tutti i software, sì, che si porta dietro è tutta roba chiusa. Software chiuso, per cui insomma. Però speriamo che ci sia anche una versione di nicchia che sarà aperta. Esatto. E altre... volevo dire, SteamOS, diciamo che aspettiamo di vederlo, esatto, girare, per... perché adesso c'è soltanto un annuncio. Dicono. E una pagina molto bella a vedersi. Credo che sia fatta in Flash. No. Appunto, no, dico. Ah, va bene. In che cosa l'ha fatta? È una pagina HTML5. HTML5 HTML5 sarà. Cazzo di domande fa? Sembra bellina. Ma non si muove niente. Come non si muove niente? No. Prima era il monitor che cicolava. Ah, era il monitor. Pensavo nel si muovesse. Nel frattempo, per chiudere un attimo il discorso che abbiamo iniziato prima della pausa musicale, della breve pausa musicale. Come breve? State attenti perché ne parleremo ancora comunque verso fine ottobre, diciamo metà ottobre, fine ottobre, dalla metà fino al 32, esatto, è atteso il rilascio di Ubuntu Phone 1.0. Ecco. State attenti perché se lasciate lì il telefono c'è il rischio che vi prenda sto virus, esatto, e poi... Ma non è un virus, dai! E non lo so, è lo voglio... Saranno... distribuzione. Saranno in pochi... Esatto. Siamo operativo per? Cellulare. Ah, okay. Pensavo gabinetti. Vedremo com'è, perché per ora ci sono in giro un po' di versioni develop. Solo in pochi l'hanno potuto provare, develop, perché fondamentalmente develop. Gira solo sul Nexus. Nexus 4. 4, 7, 10, dicono. Per cui... 7, 10 sono tablet. E problema. Non ti ci sta vicino alla faccia. Come fai a girare Ubuntu Phone sul tablet? Sarà un Ubuntu. C'hai i tasti grossi, scemo. Giusto. Va bene. Io non lo so. Andiamo avanti. C'è la rotta. Comunque chi vivrà vedrà. Sì, comunque dovrebbe uscire anche col vicino, diciamo, all'uscita della nuova versione del Ubuntu 13.10. Sì, cioè, aspetta, 13.10 che esce tutti, il 10 che perché... tutti stanno aspettando. Io sinceramente no. Come Ma no? Del fatto che tutti stanno aspettando l'uscita del nuovo Ubuntu ne parleremo più avanti, verso molto la fine. Più avanti. No, verso la fine della puntata. Siamo arrivati alla fine della puntata. No, non siamo ancora arrivati. Siamo arrivati alla terza notizia della giornata. Alla terza. Più o meno. Non finiremo mai tutto questo elenco. Tre terzi in binario. Per favore, ragazzi, cerchiamo di non far passare tutto questo tempo fra una puntata e l'altra. Se no, le notizie si capisci? Non ti preoccupare, la prossima la facciamo a dicembre per Natale. E che cacchio. Allora, prossima notizia? La prossima notizia è questa, che comunque è una bella notizia, che negli ultimi mesi, quando noi eravamo in vacanza, invece Linux non si è fermato. E soprattutto le varie amministrazioni dei vari paesi da noi amici. Cioè, con la Cina, ad esempio. Ciao, amici cinesi! Ciao, amici cinesi! Vi vogliamo bene! La notizia un po' è questa. Diversi governi stanno spingendo, aiutando l'adozione dell'open source nell'ambito ufficiale. Cioè, tu mi stai dicendo che la città di Monaco, Baviera, il governo cinese, perché ovviamente c'ha i suoi perché. Perché? perché l'Argentina perché nei mercati inglesi, insomma, da queste parti, l'Argentina nei mercati inglesi, no, in generale, virgola, ah, nei mercati inglesi. Ah, okay. Io stavo pensando, ma scusa, ma tu mi stai dicendo veramente che in Italia il governo sta spingendo per l'open? No, in Italia no. Infatti in Italia non ha detto nessuno. Ne alcune regioni di quelle a statuto speciale, per cui all'estero, perché equivale all'estero, e ci sono dei progetti simili. Per esempio in Trentino, ma penso ne avevamo già parlato, Monza e Brianza? No, non è stato speciale. Peccato, è perché soltanto speciale nel senso di Monza. Esatto. E va bene. Comunque l'Argentina ha lanciato anche lei la sua distribuzione, che è stata testata nelle scuole, basata su Bibbia. Casal Pusterlingo. Gorgonzola. Secondo me è arrivato il momento di fare l'angolo di DistroWatch. No, aspetta, no, prima mi diciamo, facciamo l'altro, scusa, così sta zitto, perché cosa vuol dire sto zitto? Chi è che lo fa l'angolo di DistroWatch? Lo faccio io. Sai cosa devi dire? So cosa devo dire. Sei sicuro? Sono sicurissimo. È meglio se lo fai tu. Va bene, mandiamo l'angolo di DistroWatch allora. Vai con la musichetta. Allora un attimo, che così mandiamo la sigla. Geppo. Mandiamo la sigla dell'angolo di DistroWatch. Cosa c'è? Cosa c'è? Sì, non vedo, aspetta, non vedo, non vedo. Dammi un momento solo. Vabbè, te le dico io le posizioni. Va ora in onda l'angolo di DistroWatch. No, dopo, no, non è vero che ci senti. No. Va bene, tocca a te. Allora, al primo posto c'è Gintu. Non è vero. Come non è vero? Anche se non è vero, mi ha dato 10 euro in mano e io. Allora, la classifica come al solito tratta delle ultime 10 posizioni, ma per... Più la Gintu, diciamo. Esatto, per aiutare un po'... Si chiama par condicio. I bisogni di sentirsi, come dire, presente. Presente. E del nostro amico qua presente, perché... Lo chiameremo presente. Te stesso medesimo. Diremo che Gintu si trova al 30° posto. Mi sembra che è stabile, però. No, non c'è, no, sempre... mi sa che è caduto, no, perché era 20°. L'ultima volta. Sì, ma tu è tanto che non vieni. È stato anche peggio, ti dirò. Vai con la classifica di DistroWatch. Allora, numero 10 abbiamo la distribuzione della Clara, ovvero la Puppi Linux. La nostra Clara amica esaltata. Clara, che è sempre presente, esatto, nelle nostre puntate. È lei che salta di qua e di là. No, lei è quella che fa il rumore di fondo. Che fa il rumore di fondo così. Non si sente. Vabbè, non si sente così, devo dire. Fa dei rumori troppo di fondo. Vai, al nono comunque, posto. Comunque, al nono posto per la felicità del nostro amico mixerista, abbiamo Arch Linux. Alla posizione numero 8 abbiamo una distribuzione che non ho mai sentito, che si chiama Manjaro. Linux è una distribuzione mai provata prima, sentita adesso forse per la seconda volta in vita mia, basata su Arch Linux. Esatto. Quindi okay, per cui è già la seconda in classifica. Andiamo avanti. La prima è Gentoo. Sì, Al settimo posto abbiamo OpenSUSE, che è basata su SUSE ovviamente. OpenSUSE che è in calo, che è in calo, un po' in calo, scalzata dal sesto posto, che abbiamo PC Linux OS, che anche lei mi sembra basata su qualcosa, su Fedora. È basata su se stessa? Su se stessa. No, secondo me è su Fedora. Può essere. Comunque Fedora, queste notizie proprio sempre sul pezzo. Sul pezzo, noi sappiamo esattamente che hanno il logo quello lì, capito, no? Esatto. E ancora in crescita al quinto posto? Abbiamo la nostra amica Fedora, che tra l'altro deve uscire la versione 20 a breve, devo saper dire. Esattamente. Sì. Che anche questa ha un nome di versione impronunciabile, non mi ricordo più. Sarà Pisello Tonato. No, è una roba del genere, non mi ricordo. Il maiale volante. Dopo ci informiamo. Lecca lecca che mai si consuma. No, però è un'altra cosa. Al quarto posto, in leggero calo. Leggero calo abbiamo Mageia, che è la... Ah, la distribuzione della magia. Esatto. Sì, che ha cambiato nome 7 volte, mi sembra. Sì. Allora, era la Mandrake. I vecchi tra di noi se la ricordano come Mandrake. E quindi siete Mandrake, proprio vecchi. Poi Mandriva. Mandrivia, Mandrovia. Esatto, Mangrovia. Mangrovia. Alla fine, al giorno d'oggi, Mageia. E invece... Terzo posto? Al terzo posto abbiamo... qualche mese fa al terzo posto ci aspettiamo Debian, vuol dire, ormai al terzo posto ci aspettiamo Debian, perché è mesi che è lì, fissa. E quindi diciamo che al terzo posto, ma cosa vedo? Ma non è possibile. Al terzo posto, in calo? In calo c'è Ubuntu. Oh, cacchio, signore. Signore. Ma glielo hanno detto quello dei telefoni? Oh signore, cosa è successo? Come faranno adesso? Oh signore. Ma no, perché stanno aspettando la nuova versione, quindi nessuno va Sono veramente, guarda, io non so che cosa... No, ma perché stanno aspettando la nuova versione, quindi nessuno va Ah, per quello. Va bene. Ma al secondo posto abbiamo la nostra amatissima, stimatissima, frizzantissima, altissima, purissima Debian. Oh signori, c'è la Debian, diciamo che, nel podio, diciamo. Diciamo che l'ultimo aggiornamento ha fatto veramente bene all'utilizzo di questa distribuzione. Decisamente. E oramai viene utilizzata da chiunque. C'è solo una pecca, se vogliamo dirlo. Sì, devo dire la verità. C'è questa pecca. L'installer a partire dalla... Porcaccia boia! No, perché dovete sapere che abbiamo fatto una fiera e facciamo vedere questo live bellissimo di Debian 32-64 bit. E ma poi come lo installo? C'è qui il bottone, si chiama installa. Facile. Ma sarebbe facile. Vedere. Guarda, pecca. Non va. E c'è qualcosa che non va. E non funziona, signori. Non funziona, dovremmo... Diciamo, non fatela vedere come live. Non fatela vedere come live se la volete installare. Installatela dalla NetInstall. E attenzione, attenzione! Aspetta, al primo posto della classifica Gentoo. Ah no, aspetta. Che Gentoo? C'è Gentoo. Chi è che ha cambiato la pagina? No, c'è. C'è, come da ormai penso 8 mesi, 10 mesi, c'è la nostra Mint. Mint è sempre abbastanza stabile, in leggero calo, probabilmente. Leggero calo. Qualcuno è passato a Debian. Qualcuno è passato a Debian. Comunque, se dovete provare la Mint, provate la versione Debian, mi raccomando. Esatto. Ma sì, una bravissima. L'altra, dai. No. Tu passi, tu installi Mint, togli i repository e... Non lo so. Sì, funziona così, te lo posso assicurare. Va bene. Abbiamo trasmesso l'angolo di DistroVoce. Non mi viene mai questo. Gentoo. Così. Va bene. Torniamo alla nostra base greca per salutarvi, giunti. Moussaka a tutti. Ah, no, aspetta, devi dire il nome di Fedora. Il nome di Fedora, lo scopriremo solo dopo la pubblicità musicale. No, abbiamo la pubblicità. Ci pagano. No. Ci hanno dato $350. No, non ci paga nessuno. Ho capito, perché ho consegnato il mio dispositivo Android. Cosa? Un Nokia. No, che non si spegne più. Non si spegne più, neanche lanciato. E quindi non puoi neanche telefonare perché non funziona. Vabbè. T'ho chiamato però... 4 volte, non mi hai risposto. Ho capito, ma perché vedevo il numero. Ah, ti vedo anche i numeri adesso. Va bene, siamo arrivati in fondo a questa tremenda puntata. Diciamo che siamo stanchi. Continuate a usare programmi liberi, divertitevi e fateci sapere com'è andata. Mi raccomando, vi aspettiamo su www.gl-como.it. Vogliamo dare anche la notizia di social? Vogliamo dare la notizia di social? Social. Ok, abbiamo dato la notizia di social. Sai te. Comunque si chiamerà Eisenbug. Porterà una sfiga tremenda questa cosa. Esente da bug. Esatto, porterà una sfiga. Eisenbug. Quindi esente da bug. No, Eisenbug. Che è una città famosa della Germania. Esente da bug. No, è un è una parola del che non vuol dire niente nel linguaggio tecnico della programmazione, che si riferisce a un baco software che sembra sparire non appena qualcuno si mette a studiarlo, perché da Heisenberg e bug, cioè se non lo guardi c'è, appena lo guardi non c'è. Okay. Posso dire una cosa? Puoi dire quello che vuoi, no, intanto non dirla, perché la tu verata ni vana. E vi lasciamo con Wailers, con Cheat on Each Other. Un altro pezzo tratto da Jamendo. Vi ricordiamo che tutte le canzoni che abbiamo messo in onda, anche questa bellissima base greca, è reperibile su Jamendo, e vi lasceremo i link per scaricarli sul nostro sito. Se proprio volete anche la base, se no anche no. No, secondo me qualcuno se la mette in loop in ufficio tutto il giorno. Loop. Rompe le palle a me adesso. Loop. Va bene, ci vediamo prossimamente. Moussaka. Moussaka anche a te. Moussaka a tutti. Arrivederci. Moussaka. tecnologico di impegnato del DL Chromo. Tutti i link per le puntate su www.dl-chromo.it.